Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Medis e da Mr. Kilowatt. Ebbene, non tutti sanno che abbiamo 13 kilowatt di apparecchi elettrici installati in casa contro i 3,5 che il contatore è in grado effettivamente di erogare. 13 kilowatt di potenza se li accendessimo tutti assieme, e se invece li spegniamo tutti, beh, ci aspetteremmo zero e invece no. Lo chiediamo a Gaetano Fasano, esperto di efficienza energetica dell'Enea. Buonasera Fasano. Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Radio 24. Allora, qual è il consumo medio nelle case italiane quando, con tutto spento, in teoria non dovremmo consumare nulla? Uno si aspetterebbe di leggere sul contatore il valore zero, ma poi in effetti non è così, perché se i nostri ascoltatori facessero un esperimento scoprirebbero che ci sono sempre 150 watt che poi il contatore va a misurare, dovuti a diversi fattori che sono specifici proprio dell'impianto delle nostre case. Gli ascoltatori avranno capito che Mr. Kilowatt questa sera vi parla di consumi fantasma, li abbiamo battezzati così. E abbiamo già anche appurato che tra apparecchi in stand-by, trasformatori attaccati inutilmente alle prese di casa, pensate che all'Enea hanno provato a fare il conto e hanno scoperto che ci sono una quarantina di trasformatori ormai in una casa, ebbene si consumano, abbiamo detto, circa 150 watt. Ma questa è solo una media, in realtà ci sono casi di sprechi maggiori. Molti apparecchi, per esempio, consumano più energia durante le molte ore in cui rimangono spenti che invece nelle poche ore o pochi minuti in cui li si accende al giorno. Ci faccia un esempio, Fasano, quanto può consumare, per esempio, un televisore piuttosto che uno stereo in stand-by? Quindi con la lucetta rossa accesa, per intendersi, ma l'apparecchio spento. Dunque, c'è stato uno studio che ha promosso la Comunità Europea in tal senso, e si è scoperto che nonostante i produttori di questi apparecchi denuncino pochi watt di consumo, poi alla fine i consumi che si registrano sono notevolmente superiori. Si tratta di un range che può andare dai 30 ai 40 watt per vedere questa lucina accesa del televisore di casa. Beh, 40 watt, per dare un'idea, è il doppio di una lampadina ad alta efficienza, cioè due lampade ad alta efficienza che illuminano due stanze, insomma, consumano la stessa quantità di energia. Come si fa a tenere sotto controllo questi consumi fantasma? Ci sono diversi dispositivi che sono proprio propedeutici ad evitare questi sprechi, chiamiamoli sprechi perché tali sono, che hanno diverse modalità di impiego e anche diversa tecnologia a bordo di questi apparecchi, che vanno dalla ciabatta, che ormai i nostri consumatori conoscono benissimo, con il comando on off per spegnere la ciabatta ma non staccarla dalla rete, attenzione, oppure ci sono queste ciabatte dotate di un chip a bordo che è in grado di poter comandare on off i vari dispositivi di casa, che poi possono essere attivati comodamente tramite il telecomando, o addirittura ci sono altri dispositivi molto poco intrusivi che possono essere utilizzati potendo comandare l'accensione dell'elettrodomestico o dell'apparecchio che vogliamo utilizzare, indirizzando l'accensione esclusivamente sull'apparecchio che vogliamo mettere in funzione. Quindi è qualcosa, in un caso ci ha parlato di una ciabatta, per quanto evoluta, che si attacca alla rete, dall'altra parte invece è qualcosa che sta dentro nel pannello elettrico? Sì, è qualcosa che sta o nel frutto o nel pannello elettrico, poi dipende se una casa ha un impianto domotico, naturalmente è molto avvantaggiata all'utilizzo di questi dispositivi, ove non l'avesse può tranquillamente poi utilizzarlo attaccando questo dispositivo a un frutto, a una presa di casa. Dunque immagino che lì all'Enea stiate anche facendo delle ricerche per sviluppare qualche sistema di stand-by che consumi meno, insomma, di questi 30-40 imbarazzanti watt. Ha qualche suggerimento? Beh, i suggerimenti, noi stiamo attivandoci anche con industrie che producono questi dispositivi per mettere a punto dei sistemi intelligenti di gestione di questi apparecchi. Ecco, io direi di chiudere la nostra intervista con un esperimento che proponiamo agli ascoltatori, cioè spegnere tutto, le luci, spegnere il forno, ovviamente la lavatrice, elettrodomestici come questi che consumano molta energia, andare a vedere quanto sta consumando il contatore. E chiediamo ai più volonterosi di scriverci, potete scrivere a mrkilowatt@radio24.it, siamo molto curiosi di sapere che cosa succederà, e magari Fasano poi ci risentiremo e vediamo un po' che cosa è venuto fuori da questo sondaggio. Certo, penso che troveremo delle sorprese molto spiacevoli per i nostri utenti, ma molto interessanti per le nostre attività di ricerca. Per noi che ne parliamo. Va bene, buona serata. Grazie, arrivederci. Una sola considerazione prima di chiudere: una quota significativa di spreco è presente non solo nelle case ma anche negli uffici, dove si possono applicare tutti i rimedi che abbiamo detto e di cui abbiamo parlato questa sera. Questo è davvero tutto, Mr. Kilowatt torna domani, parliamo di come ventilare un edificio evitando gli sprechi. La parola d'ordine sarà ventilazione e recupero di calore.